Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, siamo qui fino alle 16. Abbiamo dato un supplemento di vacanze a Carlo Genta. Ieri vi avevo detto torna Carlo Genta dopo il GR delle 14, invece no, torna domani dopo il GR delle 14. Ultime notizie dal calcio italiano, che questa sera finalmente rientra anche lui dalle ferie e si allinea al resto dell'Europa, Germania esclusa. È arrivato un'oretta fa intanto il transfer di Podolski, è arrivato all'ora di pranzo, quindi Podolski può allenarsi questo pomeriggio con l'Inter e potrà andare almeno in panchina domani sera allo Juventus Stadium. Poi alle 12.44 è stato depositato in Lega il contratto di Alessio Cerci, e dunque 2 ore e 16 minuti prima di Milan, delle 24 ore prima di Milan-Sassuolo, e dunque Cerci potrà essere in campo per Milan-Sassuolo. Se vogliamo, è una notizia anche che Alessio Cerci abbia colto al volo il consiglio di Silvio Berlusconi e questa mattina, con tanto di foto che lo testimonia, si è presentato completamente sbarbato Alessio Cerci. Poi c'è Montella, che praticamente ha annunciato l'esclusione di Neto, poi c'è Benitez, felice per il mercato, che gli ha regalato Gabbiadini e Strinic, c'è Allegri, che ha fatto la lista della spesa e ha detto chiaramente che vuole un trequartista e un difensore, e c'è Garcia, che ha le prese con una montagna da scalare, la montagna di quelle che sono tutte le aspettative per il 2015 della Roma. Ma io firmo se in 2015 facciamo lo stesso che in 2014, potrà dire che lotteremo per lo scudetto, lotteremo per vincere dei titoli, era la cosa l'anno scorso, ancora per il momento la possibilità di farlo. La differenza da quest'anno e l'anno scorso è che, già l'ho detto, dobbiamo vincere qualcosa, abbiamo 3 competizioni da giocare e le giocheremo fino alla fine per vincerle tutte. Questo Garcia alla vigilia di Udinese-Roma, gara che domani apre il programma del Perifania alle 12.30. In realtà si comincia questa sera ore 20.45 con Lazio-Sampdoria, che non ha l'etichetta del big match perché quella è destinata soprattutto a Juventus-Inter di domani sera, ma che è pur sempre la sfida tra le due terze in classifica. Dunque si comincia con un buon antipasto, poi il meglio arriva domani sera, ore 20.45, Juventus Stadium, c'è quello che tradizionalmente viene considerato il derby d'Italia. È una partita strana, è come la prima di campionato, e quindi domani fa risultato chi ha più attenzione, chi è più concentrato, e non è una questione né fisica né tecnica domani è solamente una questione di testa. Sicuramente sarà una partita dura, difficile, perché comunque la Juve sta facendo molto bene negli ultimi anni, però è anche una partita classica del calcio italiano, quindi è una partita, se una squadra gioca bene e concentrata può battere chiunque, quindi non c'è un modo per batterla, credo che bisogna essere bravi. Il risultato positivo vuol dire la vittoria. Durante l'anno ci sono delle partite importanti dove facendo 3 punti così è chiaro che qualcosa ti può cambiare, soprattutto per l'autostima della squadra, e quindi è chiaro che potrebbe essere un momento molto importante. Poi ci sono quelle che sono lì nel gruppone che lotta per il terzo posto in classifica, che significa poter sperare nei milioni della Champions League. Ci sono 9 squadre in 6 punti. In quel gruppone c'è chi domani sulla carta dovrebbe avere pochi problemi, ha certamente impegni più semplici, non fosse per le incognite che da sempre tradizionalmente rappresenta il primo turno dopo la sosta, che spesso fa cadere. L'abbiamo visto anche ieri in Spagna con il suicidio di Real Madrid e Barcellona. Milan e Napoli sulla carta, Sassuolo e Cesena, partite più semplici. Insomma, è una squadra molto ben organizzata, ben allenata, però sappiamo le insidie di questa gara, ne siamo consci, per cui per ottenere i 3 punti ci vorrà il Milan visto nelle ultime partite, senza ombra di dubbio, perché è una squadra, insomma, non pareggia con la Juve, non vince a Roma a 20 punti alla fine 2-0, cioè non ha dei valori. Sì, noi vogliamo approfittare tutto quello che abbiamo fatto contro la Juve, vincere la Supercoppa, la carica della squadra, il gioco, tutto questo che abbiamo visto in questa partita, credo che dobbiamo approfittarlo. Sappiamo che abbiamo bisogno di continuità e abbiamo l'opportunità contro il Cesena di fare una buona partita, di vincere e avere questa mentalità giusta per affrontare tutto quello che resta del campionato. 800240024, siamo insieme fino alle 16, tra poco arriva Pierluigi Pardo. Non abbiamo pensionato Carlo Genta, come scrive Francesco da Mantova al 349-238-6666. Siamo qui per vivere insieme a voi la vigilia di questa ripresa del campionato, 17° turno. Tra i motivi di curiosità c'è anche capire cosa farà la Fiorentina con Neto, che l'altro giorno ha detto chiaramente che non rinnoverà il contratto e probabilmente si è accordato con la Juventus, ma poi parleremo anche di mercato. I tifosi lo contestano, Montella forse non lo farà giocare, oggi ne ha parlato così. A livello personale, umano, anche se io rappresento la società, c'è grande amarezza, però sono situazioni di calcio e che sono sempre esistite e forse sempre esisteranno, però fa parte del calcio. Poi ci sta la parte professionale, che è tutta un'altra cosa, è quella su cui mi devo attenere, è quella sul devo valutare senza farmi condizionare dall'aspetto umano, personale o quant'altro, come ho sempre fatto, fa parte del mio ruolo, insomma, sia nel bene che nel male. Avete capito se gioca o no domani Neto? Franco Piantini, autore di questa puntata, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. 800240024, traffico. Per Cerci è appena arrivato i PIP. Urrà! I PIP! Urrà! I PIP! Urrà! Urrà! Urrà! Per un Milan vincente nel 2015. I PIP! Urrà! I PIP! Convocati. 800240024, saluto Serse Cosmi, ciao Serse. Salve, buongiorno a tutti. Finalmente ci siamo, vacanze finite, noi, perché gli altri abbiamo visto in questi giorni vanno avanti, finalmente vacanze finite, 9 giornate in meno di 2 mesi, si apre il momento decisivo di questa stagione? Sì, beh, le vacanze per me purtroppo ci sono da troppo tempo, per cui preferirei non farle. Sì, beh, adesso si entra nel momento decisivo, poi i campionati sono tutti momenti determinanti, possono esserli, insomma, possono essere, però sicuramente si entra in un momento particolare dove inevitabilmente dovranno venire fuori, insomma, i valori veri, e si capirà le squadre che lotteranno per i vari obiettivi, insomma. Pier, ci sei? Pronto? Pier? No, è caduto, adesso recuperiamo per Luigi Pardo. Sì, perché in questi 2 mesi, da qui al 1° marzo, e poi in fondo a questo tunnel il 1° marzo c'è Roma-Juventus, che potrebbe essere la partita a scudetto, si giocano 9 giornate in meno di 2 mesi, poi bisogna aggiungere la Champions League per la Juve, bisogna aggiungere l'Europa League per tutte le altre, ci sono un paio di turni di Coppa Italia, potrebbe anche esserci lo stage di Conte, non so come la pensi tu, Serse, sullo stage della nazionale. Ma come la penso? È chiaro, poi ognuno, è normale, nel momento in cui uno fa l'allenatore di una nazionale, soprattutto l'estrazione di Conte è particolare, nel senso che lui è poi allenatore da quando è iniziato, allenatore vero, nel senso che sta con la squadra, vorrebbe starci il più possibile, per cui cerca inevitabilmente di trovare più tempo e più spazi per poter lavorare, perché è vero che è un selezionatore, quindi il ruolo è assolutamente diverso, però nello stesso tempo poi rimane sempre dentro quello spirito, quella voglia di poter dire qualcosa in più, di poter, quindi è assolutamente apprezzabile il fatto che lui voglia stare più possibile con i giocatori. Problema, la verità poi... Sì, comprensibile anche il pensiero degli altri. I giocatori sono delle società. Insomma, sì, del resto Conte, allenatore della Juve, non avrebbe mai concesso i suoi a inizio febbraio. Nel momento in cui devono vendere un giocatore, rivendicano il fatto che è un giocatore che è in nazionale, solo quando lo devono vendere. È normale, insomma, in quel momento la nazionale ha una priorità assoluta, insomma, nel momento in cui devono dare i giocatori più tempo, non dico che è normale, però si sa, insomma, vorrebbero che fossero sempre con i club. Questa è una cosa che non è che è venuta fuori adesso, esiste da sempre e credo che si potrà portare qualche piccolo accorgimento. Poi alla fine il selezionatore sarà sempre un selezionatore che dovrà a che fare, insomma, con questi problemi. Sì, abbiamo sentito prima Allegri molto prudente sulla partita con l'Inter, Mancini dire che l'Inter deve andare a Torino per vincere, siamo a mind games della vigilia, la Juventus deve avere paura di questa Inter, oppure i 18 punti di distacco che ci sono in classifica sono l'esatta fotografia oggi dei rapporti di forza? Beh, oggi sono l'esatta fotografia dei rapporti di forza fra la Juventus e la Roma e tutte le altre, insomma, voglio dire, quindi i valori espressi oggi sono esattamente figli di quelli che sono le qualità delle squadre, insomma, voglio dire, poi si potrà disquisire su 3, 2, 1 punto in più o in meno, voglio dire, ma poi alla fine, insomma, voglio dire, se c'è questo distacco significa assolutamente questo per quello che riguarda il campionato. Poi il campionato è composto da tante partite e nella partita secca, chiamiamola così, l'Inter, in virtù ovviamente di qualcosa che è cambiato, di magari motivazioni diverse e anche di un blasone che comunque conta quando va in campo, anche una rivalità un pochino storica, e allora insomma questi 18 punti diventano meno, quindi potrebbero diventare anche niente nell'arco di una partita, quindi ha ragione Allegri a temere, voglio dire, l'orgoglio dell'Inter è, l'Inter fa bene a pensare di poter andare a Torino anche a cercare un po' di dare un senso, non dico una stagione ma a un momento, perché vincendo a Torino potrebbe anche far decollare, ovviamente non in funzione di quest'anno il discorso scudetto, però in una ricostruzione vera, perché le ricostruzioni avvengono attraverso anche degli episodi importanti, perché sennò rimangono solo ricostruzione a parole, insomma. Sì, serve un po' di autostima in questo momento a tutto l'ambiente. Sì. Pier, ci sei? Ci sono, ciao. Nella ciao, calza, nella ciao, calza ciao. Della Befana, scrivono gli amici 349-238-6666. Pierluigi Pardo fa ancora in tempo a chiedere un nuovo telefono cellulare, un altro. Ma no, come vado adesso? Vado bene, dai. Vai bene. Stiamo parlando di Juventus Inter, Allegri molto prudente, Mancini molto, molto spregiudicato, così come forse domani farà giocare in maniera spregiudicata la sua Inter. Probabilmente Podolski non dal primo minuto, il transfer è arrivato, tra mezz'oretta si allena per la prima volta con Mancini, però c'è l'impressione che sia una partita che l'Inter stia cercando di giocarsi in questa vigilia, Pier, soprattutto psicologicamente come approccio, visto che la distanza in classifica è quella fotografia che faceva anche prima Serse. Assolutamente, io credo che l'Inter debba giocarsela con sfrontatezza, paradossalmente ha più da perdere la Juve dell'Inter, quando sei molto più forte a giudicare dalla classifica, hai degli obiettivi importanti, hai una sfida a scudetto in corso e che arriva comunque una rivale storica, è un po' la complicazione, anche se c'è meno distanza, che avrà la Roma poi domenica nel derby con la Lazio, cioè comunque sia, è chiaro che la sfida a scudetto è una sfida, è la madre di tutte le sfide, quindi soprattutto le partite con squadre comunque di buon livello, nel caso della Lazio di ottimo livello, che hanno anche dal punto di vista, diciamo, della rivalità, che smuovono qualcosa, sono molto pericolose. Quindi non mi stupisce l'approccio di Allegri, non mi stupisce l'approccio di Mancini, poi io penso che ci sia comunque una distanza tecnica tra le due squadre, che ci sia uno Juventus Stadium che pesa e quindi penso che la Juve sia ovviamente favorita, però insomma l'Inter deve provarci ed è vero quello che dice Serf, che poi, ed è per esempio il caso del Napoli, è più eclatante, esiste a volte una differenza fra il rendimento quotidiano di una squadra, no? Le 38 partite, la continuità di rendimento e la grande sfida, la singola prestazione. Nella singola prestazione l'Inter può tirar fuori anche qualcosa di interessante. Sì, e ci aggrappiamo a questo per sperare domani sera di vedere una partita quantomeno equilibrata. Mi chiedo se ci sia qualcosa invece di sorprendente, Serse, sull'atteggiamento di Garcia, che anche oggi ha alzato l'asticella e ha detto dal 2015 chiedo che si faccia come l'anno scorso, con la differenza che quest'anno qualcosa dobbiamo vincerlo, che mi pare la riedizione di quanto già detto nei mesi scorsi, sulla certezza dello scudetto della Roma, del processo di crescita della squadra, parole forse anche per cercare di nascondere il fatto che la Roma al momento delle prime sul mercato sembra essere quella che non è destinata a lavorare. no, sono d'accordo con Garzia, nel senso che la Roma è cresciuta in maniera esponenziale in questi due anni, insomma, sotto tutti i punti di vista. Però poi il calcio non è una cosa esclusivamente romantica, insomma, voglio dire, diventa anche risultati, diventa trofei, diventa, per esempio, cioè io parlavo prima con mio figlio, dicevo di Benitez, no? Quando c'è un trofeo, qualcosa che si avvicina, poi con tutte le critiche che può ricevere, però Benitez sembra proprio predestinato a vincere qualcosa sempre, anche nei momenti di grandi difficoltà. E la Roma deve cominciare a fare questo. Adesso l'obiettivo ovviamente della Roma in assoluto più importante rimane il campionato e anche Juve permettendo quello più possibile oggi, insomma, voglio dire, quindi però deve cominciare a fare qualcosa, insomma, a fine del 2015, la fine della stagione calcistica del 2015 ci dirà se la Roma seguita in questa crescita esponenziale anche rilevante, però nello stesso tempo poi senza dei risultati concreti. Anche perché, a oggi sta facendo bene. Pier. Anche perché poi sono due piani diversi, no? Da un lato c'è la necessità dell'arrivare in Champions League, sappiamo quanto è importante, no? Tutto ciò che riguarda il futuro, è chiaro che se arrivi prima o seconda o anche terza col preliminare ti garantisci gli introiti futuri della Champions League. Poi c'è invece un piano più dell'attimo fuggente, della vita adesso, del vincere le coppe, che è importante. E ci sono delle società, ad esempio il Napoli, sicuramente con la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, ma anche la Lazio, per esempio, in tempi recenti è una squadra che ha vinto delle coppe, se l'è portata a casa, al di là, insomma, della soddisfazione speciale del derby, ma anche quella contro la Samp, no? Non è quasi mai riuscita a fare grandi piazzamenti, però poi quando c'è la competizione alla sua portata riesce a far bene. Insomma, dal punto di vista del tifoso poi quelle sono soddisfazioni comunque. Quindi il discorso di terza secondo me è giustissimo. La Roma, dopo una marea di secondi posti negli ultimi 15 anni e con una continuità che un anno e mezzo fa nessuno poteva immaginare, deve riuscire a vincere. Non è che sia semplicissimo, non è che basta dire adesso ci impegniamo e vinciamo, sì. Però la grande sfida del 2015 della Roma è questa. Vale anche per il Milan, sentito con le mie orecchie un'oretta fa Pippo Inzaghi ribadire il concetto: la Coppa Italia quest'anno è la nostra Champions, abbiamo bisogno di tornare a respirare l'aria di una finale, a provare ad alzare un trofeo, perché questo club non lo fa da troppi anni, discorso che io sottoscrivo assolutamente. Sarebbe stato bello che il Milan e tanti altri l'avessero fatto anche in altri momenti. A proposito, Pier, hai visto Cerci sbarbato? Sì. Avevi dubbi? Dubbi, lo credo. Ma insomma, sai, che ti devo dire? Non so se è una limitazione della libertà individuale, quasi da denuncia dei diritti umani, se invece in realtà non è altro che, e propendo per questa seconda ipotesi, comunque la voglia di giocare. È chiaro che quella è una dinamica che c'è, e nel momento nel quale i giocatori del Milan cantano in coro, e l'abbiamo fatto pure noi ieri giocando con Andromerco in Pipurra, poi ci si taglia anche la barba. Ma insomma, io ti dico la verità, credo che il Berlusconi presidente abbia nettamente più pregi che difetti, non credo che ci siano dubbi. Poi sul politico, ovviamente il dibattito è aperto in Italia e non mi interessa, ma dal punto di vista dei risultati sportivi ne ha ottenuti di così grandiosi, e questo è il senso. Poi certo, no, ti volevo dire, dovevi andare anche a dire a Gullit di tagliare i capelli, però sì, no, Gullit non se li è tagliati mai. Non l'ha mai tagliati. Altri tempi, tu avevi dubbi? Altri giocatori, altri giocatori, cioè altre personalità, altri tutto. Perché ti posso dire che nell'anno dello scudetto della Champions del Milan, quella di Atene, Berlusconi era fissato con la regola del portiere che si poteva muovere sulla linea di porta durante i calci di rigore, e quindi c'era questa ossessione che ripeteva continuamente a Ancelotti e gli altri, che qualche prova l'avranno anche fatto. Cioè, ci sono dei vezzi di un presidente che comunque ha tenuto la società per 25 anni a questi livelli, e uno può decidere di accettarli. Poi certo, insomma, Cerci poteva tranquillo, ci mancherebbe altro che Cerci non potesse tenersi la barba. Se l'ha fatto, immagino che l'avrà fatto così per fare una piccola cortesia al suo presidente. Sì, insomma, poi la barba va di moda, da questo punto di vista ci sono, sai che ci sono le case Ma poi era un filo di barba, non è che avesse la barba di un talebano. Per chiudere, Serse, meglio Cerci o Podolski, barba a parte? Ma sono due giocatori. Cioè, a chi è andata meglio tra Inter e Milan? Perché l'Inter voleva Cerci, si trova Podolski, il Milan è stato bravissimo ad anticipare. Oggi Inzaghi ha detto, lo cercavamo da quest'estate, io tutti i giorni andavo da Berlusconi a chiedergli Cerci, finalmente mi è arrivato. A chi è andata meglio dei due? Ma guarda, Cerci fino all'anno passato ha dimostrato di essere un giocatore determinante nel nostro campionato. Podolski non l'ha mai frequentato, quindi si può avere qualche dubbio in più perché non ha mai giocato nel nostro campionato, e noi sappiamo che anche tanti bravi giocatori hanno avuto delle difficoltà. Quindi tu domani lo faresti giocare? Per l'usato sicuro, diciamo così, però io faccio riferimento a due giocatori che nei rispettivi campionati non giocavano. Ma lo faresti giocare o no domani Podolski? Ma questo non può sapere solo Mancini. No, cioè, un giocatore che tra mezz'ora fa il primo allenamento con la squadra, appena arrivato il transfer. Guarda, e domani deve essere gettato a Torino. La differenza di Snyder, no? Però era un'altra cosa. Mi ricordo a Perugia non si poteva fare, per esempio, perché arrivò Bazzani il sabato mattina, gioca contro il Milan, tra l'altro tifoso milanista, fece anche il gol. Voglio dire, però erano altre situazioni, altri momenti, è chiaro, nell'Inter valgono magari dei contesti particolari, quindi anche capire le condizioni di Palacio e di altri giocatori, ripeto, non lo so, però insomma credo che siano, lo confermo, due ottimi acquisti. Un po' più di sicurezza per Cerci, perché ha dimostrato a Torino di essere determinante, però nulla tristezza, perché la realtà ci dice che sono due giocatori che in Spagna e in Inghilterra non giocavano. Sì, facciamo un po' collezione di figurine scartate dagli altri, di doppioni. No, io non dico scartate, perché poi, ripeto, secondo me Cerci poi è un giocatore che poteva tranquillamente giocare nell'Atletico Madrid, in Spagna, anche nelle squadre più importanti, quindi non è quello, però ecco, vedere, cioè io tutti erano demoralizzati sul fatto che Cerci fosse andato fuori, io invece ero contento, perché andando nell'Atletico Madrid magari portava il nostro calcio, qualcosa che ancora esiste, invece non giocando lì nell'Atletico e ritornando come, non dico salvatore da patria, però come eroe solo quasi, mi fa pensare, insomma, sì. Fa pensare che il nostro calcio ancora deve far molto di più. Fa pensare che l'esterno della nazionale ce l'hanno restituito dopo tre mesi. Grazie Serse. Grazie a Serse Cosmi. Grazie, Pier, a voi, grazie a voi. Stai lì, 800 24 00 24, noi siamo qui fino alle 16, quindi se volete dirci cosa ne pensate su Cerci, Podolski, sulla barba di Cerci, su Juventus-Inter, sul mercato, su quello che volete, 800 24 00 24, borsa. Abbiamo avuto un arrivo che a me ha fatto molto piacere, perché inseguivamo Cerci da tre anni. Finalmente è arrivato, mi ha fatto anche già una promessa scioccante che si taglia la barba per la prima partita. Tutti convocati. Io penso che non abbiamo bisogno di aspettarci rinforzi sulla rosa che adesso abbiamo qui. Penso che abbiamo una rosa che è equilibrata in tutti i settori, attacco, centrocampo, difesa, che abbiamo delle possibilità enormi di sostituzione quando uno si fa male, quando uno è stanco, quando uno è squalificato, eccetera, che le altre squadre non hanno. Che noi abbiamo la possibilità di ritornare con questa rosa, di tornare ad essere il Milan protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Dobbiamo prendere tutte le partite come partite importanti, mai sotto gamba, anche col Sassuolo, anche col Chievo, andare sempre in campo con l'intenzione di essere padroni del campo, padroni del gioco, e di fare la goleada, e abbiamo la possibilità di fare la goleada. Io credo che abbiamo assolutamente la possibilità con il nuovo anno di imporci come la migliore squadra italiana. Sulla personalità dei giocatori scalda, Pier, cioè, che dice, ragione Serse, questione di scarsa personalità, tagliarsi la barba, perché l'ha detto il presidente, a parte che lo faceva anche Boniperti nella Juventus degli anni 80, Berlusconi non è il primo. Prego, Pier. Non starei a fare una grande storia, è chiaro che ci possono essere dei caratteri umani che sono più portati al compromesso ed altri meno. Il discorso che fa Sergio è un discorso che ci può stare, chiaramente. Presidente, non si preoccupi della mia barba, mi vedrà sul campo se è il caso di darmi i soldi che mi dà e di essere felice di avermi in squadra. Detto questo, ci sono anche della vita delle cose che si fanno, ripeto, per il piacere di farle, come delle piccole. Io non so che rapporto avesse Cerci con la sua barba, se fosse un rapporto maniacale da fede della barba, ecco, se si è procurato un danno ha fatto male, se si guarda allo specchio e si piace di meno per fare contento il presidente ha fatto male, se invece non gliene fregava niente ed era semplicemente una piccola cosa che ha fatto così per giocare e per mostrare la sua buona volontà, secondo me non c'è niente di male, ma davvero Cerci non verrà giudicato da quello che farà in campo, insomma, da quello che farà davanti al barbiere con la lametta, ecco, verrà giudicato da quello che farà in campo, cosa che del resto non capita e non è capitata neanche a El Shaarawy. Nostro Franco Piantanida ha ripescato un frammento del febbraio 2013. Adesso magari si cambiasse anche la pettinatura, però così è molto riconoscibile, soprattutto per i vecchietti come me che ci vedono poco. Mica vero? Oh, se l'è tenuta, la cresta El Shaarawy. No, infatti non è che sai, una volta c'era la storia, ma erano ovviamente altri tempi, della Juve, dello stile Juve, no? Di Boniperti che faceva tagliare i capelli, cose di questo tipo. Berlusconi, uno che ti raccontano i vecchi che hanno cominciato a fare la televisione commerciale con lui 25-30 anni fa, è uno che stanno sempre molto attento al look, al modo nel quale ci si presenta. C'è la famosa frase che lui diceva ai vari anchor che rappresentavano l'azienda, entravano nelle case degli italiani e quindi bisognava presentarsi con un certo tipo di stile. Onestamente, nel mondo del calcio di oggi, dove uno su 30 non ha tatuaggi e ci sono creste di tutti i tipi, è un discorso veramente poco legato ai tempi, quindi insomma io penso che abbia voluto fare una battuta, abbia voluto giocare, ripeto, Cerci se ha talento e se ha personalità lo mostrerà in campo, non lo dimostra davanti al barbiere. Sì, Luciano da Brescia, 800 24 00 24. Poi parliamo anche del mercato e dei 20 milioni che il Galatasaray vorrebbe per Sneijder, così tranquillizziamo Sandro da Udine, ne parliamo e stiamo qui fino alle 16. 800 24 00 24, chiamate. Luciano da Brescia. Buongiorno, salve. Eccoci. Volevo fare due considerazioni. A me sembra che sia il Milan, l'Inter e il Napoli, con gli acquisti che abbiano fatto, il Napoli forse un po' meno, non abbiano veramente risolto i loro problemi, perché se questo si chiama mercato di riparazione, mi sembra che né il Milan, né l'Inter, né il Napoli siano intervenuti nel reparto in cui dovevano riparare. Mi spiego, il Milan da sempre ha il problema, il Milan, l'Inter e il Napoli sono accomunati dallo stesso problema, cioè di un giocatore che abbia fosforo davanti alla difesa. E poi la seconda considerazione è quella su Cerci e sulla sua compagna, perché a luglio ce ne andiamo nel calcio che sì, conta, finalmente adesso nel calcio che è conta. Tornato nel calcio che non conta più. Cioè, bisogna avere anche un po' di dignità, no, forse è una parola troppo pesante, però un po' di decenza. Cosa doveva fare Luciano Cerci, visto che all'Atletico Madrid è andata male e va nel Milan, cioè non sta andando a giocare, con tutto il rispetto, in Lega Pro o tra i dilettanti? Doveva insistere e provare a diventare titolare nell'Atletico Madrid, perché sei un giocatore di personalità, se no rimarrai sempre uno dei tanti, perché hai avuto la possibilità di andare nella squadra vice campione d'Europa, la squadra che lotta per la Liga da 2 anni, con un allenatore fra i migliori d'Europa, in cui puoi affermarti e diventare un membro della storia di questo club. Significa che il signor Cerci ha 28 anni, probabilmente non è questo campione che tutti pensano che sia arrivato in Italia. Sicuramente, tanto per essere chiari, sapete che 0-0 mi piace poco. Cerci ha fallito all'Atletico Madrid, ha fallito come Torres ha fallito al Milan. Io sentivo il tuo discorso di prima, se ci può consolare possiamo anche dire che ieri sono arrivati per motivi sentimentali, simbolici, quello che ti pare, ma ci sono stati 40.000 tifosi dell'Atletico Madrid che sono andati a riempire lo stadio per uno scarto del campionato italiano, perché tale è Torres, ne so qualcosa io che l'ho dovuto comprare a fantacalcio, mi serviva un attaccante e c'ho una minusvalenza, vabbè, a parte le battute, quindi questo non ci sono dubbi. Cerci all'Atletico Madrid ha fallito, non è che c'è poco da girarci attorno, ha fallito e chiaramente arriva oggi, torna ai campionati italiano sei mesi dopo, cinque mesi dopo, con una quotazione sicuramente più bassa rispetto a quella che aveva cinque mesi fa, e quel tweet, quella famosa battuta andiamo del calcio che conta, è stato un boomerang. Detto questo, poi adesso è che siccome c'è stato quel tweet, Cerci non doveva mai più tornare in Italia, insomma, che vogliamo fare, spariamo, sì, perché ha detto assolutamente, allora, assolutamente impensabile. Sul discorso di prima, sul volo, secondo me allora, Gabbiadini al Napoli serviva perché si è fatto male Insigne, e secondo me è un grandissimo colpo di mercato, sapete come la penso. Sul resto sì, sicuramente servono giocatori di posto davanti alla difesa, ma con Mancini abbiamo capito che l'Inter dovrà avere dei giocatori esterni offensivi di un certo livello, e Podolski ovviamente nelle speranze dei tifosi e dello stesso Mancini rappresenta un'arma in più. Per quanto riguarda Cerci, lì è tutto dovuto al fallimento di Torres, al fatto che Menessa ha dimostrato di avere comunque la possibilità di far bene anche la prima punta, e Cerci è un giocatore che può essere utile. Non mi sembrano tre cose così illogiche. Ecco, no, anzi, il filo che lega tutto è che si sono mosse soprattutto Inter, Milan e Napoli, e lo abbiamo detto ieri, quest'anno la corsa per il terzo posto viaggia su punteggi fin qui molto bassi, molto sotto media. Evidentemente tutte e tre, ma soprattutto le due milanesi, hanno pensato che fosse meglio Pierre intervenire subito per cercare di capire se esiste davvero un margine per arrivare a quel terzo posto, perché siamo davvero sotto media, 7-8 punti in meno rispetto agli ultimi 10 anni. Salvo da Catania, salvo. Sì, salve, buongiorno e buon inizio anno a tutti voi. Anche a te, prego. Ascolta, io volevo parlare di Wesley Sneijder, più che altro volevo rimarcare, io sono interista, tra l'altro sono anche socio nell'Inter Club del mio paese, volevo rimarcare quanto sia stato incompetente il signor Brang, cioè lasciarsi scappare un giocatore di quel calibro, uno dei trequartisti a mio avviso anche unici nel suo ruolo, perché parliamo di trequartista puro nel vero senso del termine. E io, come hanno gestito la storia Sneijder, cioè è stata una cosa allucinante. Adesso sono ben felice che il Galatasaray chieda 20 milioni, anche se forse è esagerato, ma più che altro per rimarcare, ripeto, quando valga un giocatore di quel calibro. Sì, scommettiamo che Sneijder arriverà alla Juventus per molto, molto, molto, molto meno di 20 milioni di euro, salvo. Sì, sì. Cioè, non ho capito la domanda, scusa. Scommettiamo che arriverà alla Juventus per molto meno di 20 milioni di euro, Sneijder. Io non credo, sai perché non credo? Non perché voglio contraddirti. Allora resta a Istanbul. Ha parecchi problemi economici, quindi non credo lo lasci andare via. A parte lo stipendottino che ha, ma non credo preferisca svendere, preferisce tenerlo a mio avviso, a mio modesto parere. Pier. Sneijder vale 5-6 milioni, dai. Ma per motivi strettamente anagrafici, non è un giocatore facilmente trattenibile. Io penso che andrà via. Sì, siamo al gioco delle parti. Penso che se la Juve, io penso che questi 20 milioni siano così una mossa un po' sfrontata per sedersi attorno a un tavolo e ricordare alla Juve che qualcosa dovrà dare. Questo qualcosa mi meraviglierei se superasse i 4-5 milioni. Lo dico sinceramente, ammesso che la Juve voglia fare comunque un investimento di cartellino per questo giocatore, che è certamente un giocatore con dei colpi eccezionali, da qualcosa la stessa Juve l'anno scorso a Istanbul, ma è anche un giocatore che secondo me la Juve serve fino a un certo punto, che non è facilissimo da tenere in panchina perché chiaramente ha una storia di un certo tipo e che forse la parte migliore della sua carriera il meglio già l'ha dato, soprattutto negli anni dell'Azzurri. Sì. È stato nel 2010, è stato un giocatore pazzesco. A proposito, appunto, dicevamo di esordi, no? Se giocherà Podolski dopo un allenamento solo, ricorderete che Sneijder esordì in quel derby di agosto contro il Milan 4-0, era appena arrivato. Preparandolo via SMS SMS con Mourinho che mentre si chiudeva la trattativa gli spiegava: tu domenica giocherai così, però quello Snyder entrava in un Inter solida. Questo Podolski secondo me rischierebbe di essere un po' gettato nella mischia da salvatore della patria, poi rischi che magari ti va male domani sera a Torino e ti bruci una parte di quell'entusiasmo, non lo so, poi deciderà Mancini. 800 24 00 24 traffico. Tutti convocati. Questo, innanzitutto manca ancora un anno e mezzo e spesso magari a volte si può cambiare idea, magari ha detto le cose in un momento diciamo di rilassatezza, però credo che non ci sia niente di particolare. In Italia a volte andiamo a fare delle dietrologie che non servono a ben poco, siamo dei professionisti e uno può avere tranquillamente l'idea dei motivi suoi tra un anno di cambiare squadra o di smettere o di ritornare al suo paese, ma su questo credo che non ci sia niente assolutamente niente di particolare, e farà il professionista fino alla fine. Io credo che in America il professionismo sia vissuto in questo modo e credo che non ci siano, non facciano tante dietrologie come spesso vengono fatte in Italia. Shaqiri ha qualche anno di meno e gioca sull'altra fascia, quindi sarebbero due esterni. È un elemento che come identikit potrebbe, secondo te, fare, sì, al caso dell'Inter? Sì, potrebbe, però anche in questo caso Shaqiri è un giocatore del Bayern Monaco, quindi è di un club molto importante, però sicuramente è un giocatore che potrebbe, insieme ad altri, potrebbe fare al caso nostro, certo, perché è un giocatore poi anche giovane, quindi è un giocatore anche da per il futuro, sicuramente potrebbe essere al caso nostro, sì. No, di mercato non ho assolutamente parlato, sapevano che la mia priorità come la società era Cerci già da quest'estate. Ed è arrivato il giocatore, insomma, che tutti noi volevamo, anche perché di centravanti ora ne abbiamo due, Menez e Pazzini, per cui siamo a posto davanti. Ma Cerci, insomma, quest'estate sapete tutti che andavo dal presidente e la mia richiesta prima era Cerci, perché intanto guadagniamo un giocatore della nazionale italiana. E poi ha delle caratteristiche secondo me uniche, lo vedo motivato, lo vedo con gran voglia di rivalsa, perché sicuramente ha passato 3 mesi difficili, 4 all'Atletico Madrid, ha grande voglia, lo vedo ben inserito nel gruppo, adesso starà a me, insomma, decidere quando sarà nella condizione ottimale, perché si è allenato poco e non può avere ancora nelle gambe la partita, però lo vedo molto voglioso di far bene e questo mi lascia ben sperare. Sempre siamo attenti al mercato, chiaramente lo abbiamo detto tutto l'anno, ma adesso ancora di più perché si apre tutto, no? E arrivare questi due giocatori hanno permesso alla squadra bilanciarsi un po' meglio, perché abbiamo qualche difficoltà, due giocatori che hanno qualità, Gabbiadini anche italiano, giovani, sono giocatori per il presente e anche per il futuro, per questo credo che è un passo avanti dal punto dove eravamo prima, e ancora siamo aperti, guardiamo, vediamo che facciamo questi giorni, ma soprattutto per decidere. Strinic è facile perché gioca a sinistra, può giocare alto o anche basso, e con Gabbiadini dobbiamo decidere, credo che la cosa più importante sarà parlare con lui, vedere dove si sente più comodo e dopo decidere che, quello che sarà meglio per la squadra alla fine, no? Perché lui può giocare quasi quattro ruoli e dobbiamo decidere dove è meglio per lui e per noi. Mi va bene così, io sono contento dei miei giocatori, mi sono già espresso, non ho chiesto nessun cambio e così chiude anche le risposte, le domande sul mercato. Sì, giocano tutti a carte scoperte in questa giornata di vigilia che è anche la prima giornata del mercato di gennaio. Li avete sentiti, Mancini, Allegri, Inzaghi, Benitez, Garcia, abbiamo sentito prima Montella su Neto. 800 24 00 24 insieme fino alle 16 per viverla questa giornata di vigilia. Saluto Xavier Iacobelli, ciao Xavier. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici ascoltatori da calciomercato.com. Ultime notizie che arrivano sul fronte Shaqiri, dicono accordo blindatissimo tra l'Inter e l'agente del giocatore. C'è qualche problema in più invece con il Bayern di Monaco, che forte di un'offerta del Liverpool non sembra accontentarsi delle condizioni dell'Inter, ti risulta? Assolutamente sì, ti confermo queste informazioni. D'altra parte la vetrina del Bayern Monaco è una vetrina particolarmente scintillante e molto molto costosa, e l'inserimento del Liverpool determina, innesca un meccanismo di gioco al rialzo. Vedremo sino a che punto l'Inter intenda reggerlo, anche perché se Podolski è stato un grande colpo a mio avviso anche dal punto di vista del costo, 600.000 euro per il prestito secco sino a giugno, considerata la valutazione del giocatore da parte dell'Arsenal, è vero che la posizione di Shaqiri sia molto diversa e il Bayern intende monetizzare al massimo la sua eventuale cessione. Sì, Pier, mi sembra che oggi Mancini si sia sbilanciato abbastanza sul fatto che a questo punto Shaqiri sia il nuovo primo nome della lista. Ausilio deve fare un miracolo, poi un giorno parleremo anche di chi parte, magari non adesso, sì, a giugno, ma andrà fatto forse un ragionamento più ampio sul mercato dell'Inter di questi mesi. La grammatica delle conferenze stampa, credo che Mancini oggi si sia espresso in termini entusiastici per Shaqiri, insomma, sì, abbiamo più di così non poteva dire. Più di così era difficile, insomma, chiaramente un giocatore che gli piace tanto, è quello che dice il direttore, è bellissimo nel momento nel quale arrivano delle altre spasimanti per questo giocatore, che oltretutto gioca nel club forse più ricco del mondo assieme a Real Madrid e Barcellona, e quindi non è che abbia tutto questo bisogno di soldi, può aspettare, l'asta tutto il tempo per farla, non è una buona notizia per l'Inter, su questo sì, non ci sono dubbi. Invece bisognerà capire anche a questo punto quanto Chiri andrà eventualmente a proporre ai suoi dirigenti di buttare tutte le risorse per Shaqiri, eventualmente anche di provare a monetizzare quel poco altro con il quale l'Inter può monetizzare, perché se Mancini magari si butta riesce a spingere questo gioco a rialzo della società dell'Azzurra. Sì, questo fin qui è il vero valore aggiunto di Mancini, che è un allenatore storicamente direttore capace di spingere, di fare pressioni sui suoi dirigenti. Poi c'è Icardi che potrebbe andare via a giugno, c'è tutto questo triangolo che mette al centro Handanovic, di cui si parla soprattutto a Roma, cioè Neto che va all'Inter, Handanovic alla Roma al posto di De Santis, e poi ci sono tanti scenari. Volevo sapere invece cosa pensa Xavier Iacobelli delle parole che arrivano da Istanbul sulla valutazione di Snyder. Penso che ci sia il gioco pirandelliano delle parti e ognuno in questo gioco ricopre il proprio ruolo. Mi sarei stupito del contrario. È chiaro che il Galatasaray, forte dell'interessamento della Juventus, non crede ai propri occhi, considerato anche il travaglio che la società turca sta vivendo a livello economico-finanziario. Però io penso che 20 milioni siano una quotazione totalmente fuori mercato, esorbitante. Secondo me in questo momento è un affare che può essere chiuso, e lo sanno benissimo anche i signori turchi, fra i 5 e i 6 milioni di euro per il cartellino. Sì, anche qui c'è un allenatore che spinge. Oggi Allegri non ha usato tanti giri di parole: voglio un trequartista, voglio un difensore, li voglio in fretta e conto di averli a rinnovo entro qualche giorno. È un segnale importante questo che arriva dalla Juventus, un segnale importante intanto perché conferma la metamorfosi tattica della Juventus di Allegri rispetto a quella di Antonio Conte, che abbiamo già visto essere messa in opera dopo la sconfitta patita ad Atene contro l'Olympiakos. Fu lì che Allegri capì quanto dovesse imprimere una svolta dal punto di vista tattico. L'obiettivo del trequartista, di un trequartista del calibro di Sneijder, che ha 30 anni, non dimentichiamolo, non ne ha né 35 né 37, e qualora ritornasse a giocare in Italia non sarebbe certamente per maturare una sinecura, ma anzi sarebbe animato da grande volontà di rilancio nel nostro campionato che conosce benissimo e che l'ha visto protagonista ai massimi livelli con l'Inter Mourinhiana. Io penso che questa Juventus, che punta anche a Rolando e continua a seguire Montoya, voglia a tutti i costi capire quanto possa diventare grande in Europa, fermo restando il fatto che lo sappiamo bene come Sneijder non possa essere impiegato in Champions avendo già partecipato alla fase di girone con la maglia del Galatasaray, ma è una politica questa, una strategia di rafforzamento ad ampio raggio, anche perché se Tevez non cambierà idea il 30 giugno 2016 dovrà essere sostituito. Sì, abbiamo sentito Allegri dire mi fido della sua professionalità. Oh, a proposito, se arriva Shaqiri, Mancini in Europa League ne può usare solo uno fra Shaqiri e Podolski, perché uno soltanto tra i giocatori che hanno fatto la Champions può essere iscritto nella lista della seconda parte della stagione. Poi vedremo eventualmente chi andrà a scegliere Mancini. Tra l'altro, Pier, mi viene in mente, c'è anche un segnale di discontinuità tra Allegri e Conte. Conte sul mercato non rispondeva mai, a parte l'ultimo periodo con le battute sui 10 euro nel ristorante da 100 euro. Allegri invece ha dettato l'agenda alla società, lui che per definizione viene ricordato come aziendalista. Sicuramente, ma Allegri sta lavorando a un progetto di rimodulazione filosofica della Juve, molto più europea, con qualche rischio in più, anche con rischio magari di andare a minare qualche equilibrio e qualche certezza di questa squadra, ma con la speranza di fare il salto di qualità in Europa. Detto fra noi, premesso che la Juve ovviamente vuole vincere il campionato anche quest'anno, ci mancherebbe altro, però è un tipo di ragionamento che ci può anche stare per una squadra che tiene a 3 scudetti, anche provare a minare qualche certezza in patria per provare a fare un salto di qualità a livello europeo. E a proposito, da questo punto di vista è chiaro che ne parlavamo ieri con una pausa pubblicitaria che Giovanni, è ovvio che nel momento nel quale venisse preso Sneijder con il tridente, poi il centrocampo deve essere un centrocampo più di lotta che di governo, e quindi qualcuno potrebbe anche pensare a un utilizzo un pochino più col contagocce di Pirlo, ma ovviamente per ora è soltanto fantacalcio. Un'ultima cosa invece su Tevez, l'abbiamo sentito il ragionamento di Allegri, e secondo me è un ragionamento giusto, cioè premesso che è un problema chiaramente per la Juve il fatto che probabilmente perderà Tevez, che andrà al Boca a meno di miracoli, però insomma io voglio ancora una volta sottolineare la professionalità di un giocatore che, a differenza di quello che tanti suoi colleghi fanno nei momenti positivi della carriera, non sta lì a chiedere un rinnovo del contratto, un aumento di stipendio, ma ha fatto una scelta di vita che sembra assolutamente è al momento la conferma, insomma non, ma certo sarà un problema, è ovvio, perché insomma la Juve senza Tevez tra un anno e mezzo dovrà farsi una bella domanda, ma io sono sicuro che fino all'ultimo giorno Tevez darà il contributo professionale che sta dando. Sì, domanda magari da porsi anche prima, fra 6 mesi, se dovessero maturare le condizioni per un investimento su un grande attaccante già quest'estate, Tevez a quel punto sarebbe forse condizionante. Grazie Pier. Ciao. A domani. Ciao, saluto anche Sergio Iacobelli. Ciao direttore, grazie. Grazie a voi e buon pomeriggio anche per Luigi Pardo. Noi invece torniamo dopo il GR insieme fino alle ore 16. Aspetto le vostre telefonate. 800 24 0024. Tutti convocati. 800 24 00 24, ancora un'ora insieme, poi andiamo in Spagna per parlare della domenica del suicidio di Real Madrid e Barcellona. Intanto Antonello da Torino. Antonello? Sì, buongiorno. Eccoci. Buon anno. Mi sentite? Prego. Ah, ok, no, ma probabilmente sono cose già sentite, era riguardo un po' a Chelsea, io sono un tifoso del Toro. Avete detto quel fatto del tweet, vado via dal calcio minore, questo fa parte secondo me dell'intelligenza delle persone, una persona intelligente non dice queste cose prima di provare l'esperienza in un campionato che non conosci, anche proprio per pararti un po' le spalle davanti a un insuccesso che poi in effetti c'è comunque stato. Sì, è stata un po' incauta, poi Antonello, ricorderai tu e ricorderanno tutti, Cerci usciva da un'estate particolare, lo ha fatto capire anche oggi Inzaghi, lo voleva il Milan, una trattativa lunghissima, certo. Cairo chiedeva 15 milioni di euro, il Milan non li aveva, e poi alla fine è sbucato l'Atletico Madrid, credo anche comprensibile in quel momento da parte di Cerci e delle persone che gli stanno intorno un po' la sensazione di essere stato tradito in quelle che erano le speranze, Antonello? Può essere. Io mi immagino ancora il calcio come non è più da mille anni, e immagino anche che un calciatore che all'ultimo minuto dell'ultima partita sbaglia il rigore che ti porta in Europa, se sei un giocatore, ripeto, non di questi tempi, l'anno dopo dici io gioco gratis ma voglio rimediare al mio danno. Dopodiché, tanto di cappello, ha fatto non so quanti gol l'anno scorso, 1000 assist, però fa proprio parte del problema dello sport italiano. Se questa gente che va all'estero e poi non trova spazio, vuol dire che probabilmente il nostro livello è quello che è. Io sono un allenatore di basket, guardo le partite di basket italiano, vedo gente inguardabile americana, ma probabilmente i nostri italiani sono ancora peggio se non riescono a trovare spazio. Quindi questo sarebbe un discorso molto più ampio, programmazione nelle scuole e via di seguito. Sì, restando, per dedicarci credo un anno di puntate, ecco, non una. Sì, restando a Cerci, verificheremo a maggio. Di sicuro aveva ragione anche Serse Cosmi prima quando dice attenzione però, perché Cerci ha fallito a Madrid, su questo non ci sono dubbi, in questi tre mesi ha fallito, però Cerci è un giocatore per il calcio italiano importante, lo ha dimostrato l'anno scorso con il Torino, lo ha dimostrato con la nazionale, e quindi certamente da questo punto di vista il Milan prende un valore aggiunto, almeno sulla carta, e prende anche la voglia di riscatto di Cerci, che cominceremo a misurare da domani in campo. Lo ricordo, Milan che ha depositato poco prima delle 13 il contratto in Lega, quindi Cerci è disponibile per Milan-Sassuolo, così come è disponibile per Juventus-Inter Podolski, è arrivato il transfer e da qualche minuto Podolski si sta allenando per la prima volta con Mancini. Nunzio da Milano, Nunzio. Sì, sono io, sono eccoci. Nunzio. Volevo dire solo una cosa, una considerazione, voi che siete più esperti, ma come si va a avere un presidente come Cairo che tra Immobile, Cerci e Ogbonna ha preso quasi 40 milioni e che ti va a comprare a Mauri che è finito? Questi giocatori lì, Sanchez Migno, adesso li dà indietro, l'unico forse discreto è Bruno Perez. Come si fa? Cosa dite voi? Che presidente abbiamo noi del Toro sempre? Io dico che abbiamo avuto solo disastri. Io dico che quelli del Toro hanno un presidente diverso rispetto a quelli che lei stava ricordando dopo i grandi presidenti del grande Torino, un presidente che ha fatto degli errori, ha anche vissuto un lungo periodo in Serie B, ma in fondo sta tenendo il Toro in questo momento là dove forse gli compete, in una Serie A complicatissima in cui il gap economico tra il Torino e la Juventus ad esempio si misura nell'ambito di 1-7, 1-8, cioè non è storicamente una convivenza facile. Quest'anno il Toro gioca l'Europa League, si è qualificato alla seconda fase. Io non so che cosa chiedono di più i tifosi del Torino, se non questo e una stagione serena, non lo so. 800 24 00 24, andiamo in Spagna. Olé! Punizione per il Real, Bale dello spazio, prova a prolungare il braccio di Negredo e il calcio di rigore per il Real Madrid. Il Manzano fischia, parte CR7, spiazza Diego Alves e il Real Madrid va avanti al 14° minuto. Gaia, corredore interessante anche Gaia, Mancino e preferisce non lavorare con il destro, servito Barragán, stavolta non si salva Real Madrid, la deviazione di Pepe costa l'1-1, ai Merengues sul destro incrociato di Antonio Barragán, Pepe ha battuto Casillas, pareggio del Valencia, delirio al Mestalla. Pareco, va in mezzo Otamendi, il muro, Nicolas Otamendi ribalta la partita al Mestalla e ribalta anche tutti quanti perché vinceva Real Madrid. Madrid e adesso avanti c'è il Valencia. Canales va dentro, la deviazione è di un giocatore del Barcellona, la Real Sociedad è in vantaggio 1-0 dopo meno di due minuti. Andiamo in Spagna, dove ieri è andata in scena la domenica dei grandi suicidi. Real Madrid a Valencia, Barcellona a San Sebastián. Filippo Maria Ricci, ciao Phil. Ciao, buon corrispondente dalla Spagna per la Gazzetta dello Sport. Dice la classifica: Real Madrid 39 punti, Barcellona Atletico Madrid 38, Valencia 34, Siviglia 33. Siviglia e Real Madrid hanno una partita in meno. Mi sembra che l'equilibrio stia diventando una costante nella Liga. Sì, assolutamente, insomma, quest'anno, che sorpresa. Cioè, già l'anno scorso con le tre squadre, quest'anno ha aumentato questo, il Valencia, teoricamente se il Siviglia dovesse vincere il recupero del 4 febbraio con Real Madrid, sarebbero tutte lì, no? Un gap cortissimo, anche io direi 7 squadre sopra i 30 punti, che non sono poche, diciamo, questo è un altro segnale positivo. Comunque sì, è una Liga molto equilibrata, e attenzione perché poi domenica c'è Barcellona-Atletico Madrid, quindi vediamo come ne esce, soprattutto il Barcellona, che ieri ha buttato via una bella occasione, perché è chiaro, attenzione, con la Real Sociedad ad Anoeta quest'anno hanno perso Real Madrid, Atletico e Barcellona. Tra l'altro, curiosità, contro tre allenatori diversi. Però ieri sera il Barcellona, dopo che aveva perso il Real Madrid, aveva veramente un'occasione d'oro. È andato sotto con questo autogol al minuto 2, dopo 80 e poco più secondi non ha reagito, e ovviamente c'è grande polemica perché Messi e Neymar, sì, insieme a Piqué, Rakitic e Dani Alves, erano in panchina, per sì, cui se vuoi sì, possiamo anche tranquillamente partire da lì. Da 135 giornate non capitava nella Liga che Real Madrid e Barcellona perdessero in contemporanea nello stesso turno. Certamente si è fatto più male Luis Enrique di Ancelotti, e non solo per quell'occasione sprecata, ma proprio per quella panchina lì. Messi, Neymar, Dani Alves, Piqué, Rakitic, Ter Stegen. Panchina che oggi, se non sbaglio, è la foto d'apertura dei quotidiani catalani, tutti. Sì, poi sì, c'è titoli molto duri su Sport, no? Dicono Luis Enrique butta via la partita, tre punti e via dicendo. Insomma, c'era di una cosa, a parziale, scusate. Negli ultimi, i 4 anni di Guardiola, Messi ha sempre perso la prima partita dell'anno nuovo. Con Villanova l'ha giocata, con Martino l'ha persa e con Luis Enrique l'ha persa, l'ha saltata. Quindi non è una novità, non è che si è inventato niente. Però è chiaro che ci sono due cose. Uno, è tornato con due giorni di ritardo autorizzati dalle vacanze, e allora magari era meglio non farlo. Secondo, il Real Madrid l'ha perso e quindi probabilmente questo poteva cambiare un po' le carte in tavola. Terzo, il Barcellona dipende tantissimo da Messi. E quarto, va bene, rinuncia a Messi, ma perché devi rinunciare anche a Neymar? Sono partiti con Suarez in mezzo, Munir da una parte e Pedro dall'altra, e non hanno combinato praticamente nulla. Poi nella seconda parte è stato anche sfortunato il Barcellona, poteva sicuramente pareggiare, come poteva pareggiare il Real Madrid, ma la sensazione lasciata dal Real Madrid è sicuramente molto migliore di quella lasciata dal Barcellona, perché la Real Sociedad era a tre punti dalla retrocessione ieri sera, prima di cominciare la partita, perché il Valencia è un'ottima squadra che aveva già battuto anche l'Atletico Madrid, e comunque è una squadra, diciamo, che sta lì, insomma, ecco, che lotta per il quarto posto, e soprattutto il Real Madrid è stato veramente sfortunato perché ha sprecato due o tre occasioni molto molto grosse, e quindi le due sconfitte hanno un sapore molto, sì, molto diverso. E poi pesa l'aspetto temporale, cioè soprattutto il Real Madrid ha giocato due ore prima, il Barcellona due ore dopo. Esatto, e questo cambia tutto nella percezione, perché fosse accaduto il contrario, staremmo forse qui a parlare di un Real che, dopo aver perso l'amichevole con il Milan, che non conta nulla, ma era la prima sconfitta dopo tempo immemore, aveva mancato anche il match point per la Liga. Invece ha giocato prima il Real e poi il Barcellona. Poi un giorno mi racconterai perché si fa il processo a Luis Enrique e ad esempio non si chiede conto a Neymar delle sue vacanze. Anche lui è tornato venerdì, 21.000 km in 13 giorni, era infortunato, due esibizioni, questo inaugurazioni, show musicali, modelle, perché abbiamo visto tutto su Twitter, tutto assolutamente tutto testimoniato da lui stesso. Sì. Prima o poi bisognerà anche parlare di queste grandi stelle palle, di come usano il loro tempo, discorso fatto un paio di estati fa anche per Messi. Per Messi, sì, quando fece migliaia e migliaia di chilometri, tra l'altro per fare quella amichevole, che poi sono finite sotto inchiesta per un riciclaggio di denaro, che non era colpa sua, però insomma è finita anche lì non benissimo. L'ultima cosa, stamattina allenamento a porte aperte, per festeggiare col pubblico al mini stadio del Barcellona. Messi non c'è andato, aveva la gastroenterite, il famoso mal di pancia tanto caro a Ibra, che appare, fa la sua comparsa e ci sono scricchiolii. Insomma, ieri sera Messi è andato in campo nel secondo tempo, quindi stava bene. Evidentemente questa notte ha mangiato qualcosa che non andava e stamattina ha saltato la festa con i suoi tifosi. O magari ha ricevuto qualche telefonata da Parigi, dove si dice lo sceicco stia pensando di vendere un paio di pezzi buoni per tentare poi in estate l'assalto a Messi. Sì, questo potrebbe anche essere, ma più che la telefonata da Parigi, se Messi vuole andare via a Parigi o no, non lo devono chiamare, sarà lui a decidere. E in questo momento la situazione è molto delicata, perché pare non ci sia feeling con Luis Enrique è verissimo che il Barcellona non ha un gran gioco, non ha idee, è involuto, non si sa bene dove vada, e Luis Enrique è così talebano nelle sue scelte, sempre al limite, no? non guarda in faccia nessuno, però a livello di rapporti non è, l'abbiamo già visto a Roma, insomma la situazione si era molto complicata. Sì, chi non che lo chiamava Zichichi nello spogliatoio della Roma, si dice che un giocatore di grande peso dello spogliatoio della Roma, quando parlava di Luis Enrique lo definiva Zichichi, cioè lo scienziato. Sì, siamo così anche a Barcellona. Magari non sanno chi è Zichichi, però insomma lo potranno definire in altro modo. Ci sarà però, qualche scienziato catalano. Non ci siamo. Il problema è che se il Barcellona cambia ancora allenatore, per un motivo o per l'altro, no? Guardiola che se ne va, Villanova che sta male, Tatamartino che non è adeguato, ora Luis Enrique di nuovo inadeguato, siamo a 5 allenatori in 5 anni. Sì, siamo sulle medie di Zamparini. Sì. Invece Carletto ha detto, dopo aver perso a Valencia, nessun dramma, dopo 22 vittorie sì, consecutive, una sconfitta ci può stare. Io ho fatto la lunga intervista a calendario, lui mi ha detto comunque, dice, lui subito aveva chiuso dicendo 2005, dice partirà male, dice, perché prima o poi arriverà la sconfitta, è arrivata subito. E vediamo, guarda, il test del Real Madrid è subito lì che arriva, mercoledì va al Calderon per l'andata degli ottavi di Coppa del Re, e questo Calderon euforico dopo il dramma del tifoso deportivo morto ha ritrovato unità e entusiasmo con l'arrivo del Niño Torres, che magari a Milano potrà anche far ridere, però ieri c'erano 45.000 persone a aspettarlo, a applaudirlo. Vediamo come va mercoledì sera, ne sapremo di più del Real Madrid. L'unico problema del Real Madrid potrebbe essere un po' di stanchezza, perché giocano sempre gli stessi. Però vediamo, sono curioso di vedere come gestisce la questione la Bale Ancelotti, perché insomma per me Bale è un grande atleta ma non un grandissimo calciatore, e ieri si è visto, insomma, gioca più per se stesso che per la squadra. C'è Jesse che è rientrato, ancora fatica, vediamo, l'anno scorso finiva quasi per togliergli il posto, vediamo come andrà nelle prossime settimane. Sì, Real Madrid che evidentemente resta una squadra meravigliosa, insieme al Bayern, il punto di riferimento del calcio europeo. Un piccolo momento di flessione ci può stare, soprattutto dopo la corsa che ha fatto tra novembre e dicembre. Presto credo per parlare di scricchioli, mettere insieme sconfitta con quella dell'amichevole contro il Milan, però certamente è stato un inizio di 2015 un po' così. Poi mercoledì sapremo qualcosa in più anche sulla dimensione di Torres tornato in Spagna, cosa che mi incuriosisce molto. Sì, perché voglio dire, allora, l'Atletico è una squadra che ha vinto la Liga ed è arrivata in finale di Champions, e teoricamente uno come Torres è lui che deve essere, infatti è stato così, ha ringraziato l'Atletico per averlo preso, però stupisce che la gente, cioè Torres con l'Atletico non aveva mai vinto nulla e l'Atletico con lui non aveva mai vinto nulla, torna un giocatore che in 3 mesi di Serie A ha fatto un gol col Milan, in 3 anni e mezzo in Premier League ha fatto 20 gol, gli stessi che fece, no, l'anno scorso Toni in un anno di Serie A più o meno, e voglio dire, non è, invece è stato accolto come il figlio prodigo, grande entusiasmo, e adesso vediamo se davvero l'area di casa fa ritornare Torres il buon giocatore che era, per me non è mai stato un grande, però era un buono, anche un ottimo giocatore, oppure lo sa anche lui che l'ultima è sì, no, non parte titolare, mi pare di aver capito sentendo no, Simeone però, no, in un paio di conferenze stampa, credo anche per proteggerlo, e qui torniamo al discorso fatto prima su Podolski e Mancini, sì, ad esempio, cioè sulla necessità di buttare immediatamente in campo questi giocatori quasi dandogli il ruolo di salvatori della patria o comunque un peso e un impatto. No, nell'Atletico non c'è nulla da salvare. No, perché comunque è a un punto del Madrid, ovviamente con una partita in più, però insomma è lì che se la gioca, si gioca il suo campionato, il Champions ha fatto un ottimo girone, per quello però c'è entusiasmo. Adesso vediamo, perché sono acciaccati Arda Turan e Mandzukic, se non dovessero giocare loro, insomma più o meno potrebbe anche partire titolare. Vediamo, oggi manca ancora l'allenamento di domani, ne sapremo di più, e poi attenzione perché è finalmente esploso Griezmann, e questo ovviamente complica anche un po' le cose per Fernando Torres. Sì, rischia di esserci un po' di traffico lì davanti, poco spazio, insomma. Poi ieri, guardando quello che è successo, è stato evidente che il fascino di riportare a casa il Nenio Torres rendeva impossibile qualunque corsa su cerci tra Inter e Milan, cioè l'Inter non ha mai avuto, momento una contropartita di tale peso, di tale fascino, di tale suggestione. No, assolutamente, ma io ero convinto che Cerci restasse, perché l'Atletico non aveva interesse né motivazioni, non aveva bisogno di prendere qualcuno. E le cose sono cambiate quando sulla bilancia è salito il Nino, che ovviamente appunto si toccano tasti emotivi tali che io sinceramente nemmeno mi aspettavo, però confermati dalle 45.000 presenze di questa domenica di gennaio, ovviamente tutti in vacanza, tutti molto natalizi e tutti più buoni, però non si poteva prevedere che comunque anche il tasto emozionale fosse tanto grande. E non c'era partita, ricordiamolo, non c'era partita perché l'Atletico Madrid aveva giocato sabato contro certo. Levante. Sono andati lì soltanto per una passeggiata di Fernando Torres sul Prato del Calderon. Ciao Filippo. Ciao. No, niente, guarda, con Torres insomma ci siamo lasciati nel migliore dei modi, purtroppo non sempre tutte le cose vanno come dovrebbero andare, anzi Torres ha mandato un bellissimo messaggio a me e a tutto lo staff, che poi vi faremo avere, perché penso che questo dimostri insomma il suo comportamento, che è sempre stato professionale. Penso che non sia andato solo una cosa, che abbiamo trovato un centravanti come Menez, che all'inizio dell'anno purtroppo è stato infortunato e non avevamo potuto provare in quel ruolo. Quando Menez mi ha dimostrato che poteva fare il centravanti come lo sta facendo, molto bene, insomma ogni domenica dovevi fare una scelta difficile, penso che quello sia stato solo il suo problema. Poi penso che il richiamo dell'Atletico Madrid per lui sia stato qualcosa di incredibile, e ci ha manifestato la sua intenzione di tornare, per cui insomma penso che alla fine sia stato un bel affare, insomma, sia per il Milan che per l'Atletico. Tanto il Milan che ringrazia Federcalcio e Atletico Madrid per la collaborazione, contratto depositato entro le 15 di oggi, e dunque domani Alessio Cerci può giocare Milan-Sassuolo. 800 24 00 24, noi stiamo qui ancora per una mezz'oretta. Maurizio da Genova, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, ieri ho avuto l'opportunità di vedere sia il Real che il Barcellona, e mi aspettavo delle difficoltà da entrambe perché, come giustamente diceva il giornalista precedente, Filippo mi pare si chiamasse. Sì, Filippo Maria Ricci. Ecco, Filippo Maria Ricci, che se non sbaglio è il vostro corrispondente dalla Spagna. No, è il corrispondente della Gazzetta dello Sport. Della Gazzetta dello Sport. Però se volete sapere qualcosa di calcio spagnolo, voi telefonate a Filippo Maria Ricci. È preparatissimo. E vi dice tutto. Io seguo il calcio spagnolo, no? Sì. Mi aspettavo un po' qualche difficoltà perché sono due campi molto difficili, sia quello del Valencia, dove se non sbaglio il Barcellona vinse al 94esimo con gol di Busquets proprio due o tre settimane fa. Sì, un mese anche fa un po' circa. Contestato. Cioè anche in una partita molto complicata. Molto complicata. Il Valencia comunque in casa è difficile. Il Real Sociedad anche, perché sono di San Sebastian, Paesi Baschi, clima, certamente poi loro sono molto orgogliosi e certe partite sì, le sentono. Poi hanno fatto però... triplette in una stagione, hanno battuto Real Madrid, esatto, Atletico Madrid, Madrid, adesso Atletico, hanno battuto Barcellona. Però io credo ne che hanno vinte altre due in tutta la stagione. Ne hanno vinte altre due in tutta però... la stagione, erano quartultimi alla vigilia della gara di ieri sera, erano quartultimi, se non sbaglio con 15 punti, ora ne hanno 18. Comunque al di là di questo è inguardabile il Barcellona. Sì, soprattutto il primo tempo, una pena. Una pena totale, anche perché mi va in svantaggio dopo 80 secondi. Hai 90 minuti più recupero, no, vabbè, 92-93 minuti per recuperare, compreso il recupero. E sinceramente, dai, o entravano, o questi, o vogliono entrare in porta con la palla, oppure tiri ne abbiamo visti? Sì, poca roba, dai, qualcosina nel secondo tempo, molto però complessivamente la Real Sociedad ha vinto anche meritatamente. Però ripeto, poi facciamo il processo a Luis Enrique. Ha fatto due contropiedi nel secondo tempo Real Sociedad che, ragazzi... Sì, poteva chiudere la partita, Maurizio. Poi ripeto, facciamo il processo a Luis Enrique che aveva questa panchina Messi, Neymar, Dani Alves, Piqué, Rakitic e Ter Stegen. Credo ci fossero 5-600 milioni di euro in panchina. Esatto. Però a me interessa anche, piacerebbe anche che qualcuno si interrogasse su che cosa fa una stella come Neymar, infortunata, perché aveva finito il mese di dicembre da infortunato, in due settimane con quella specie di giro del mondo che ha fatto. Poi parleremo con Vincenzo Pincolini a proposito di preparazione, perché va bene fare la pausa a metà della stagione, ma se poi serve, perché questi grandi giocatori, magari sudamericani, facciano 20-30 mila chilometri in 13 giorni per andare a raccogliere altri soldi, allora tanto vale che restino qui a giocare, io la penso così. Mario da Bergamo, Mario. Buongiorno, grazie per la convocazione. Eccoci. Senta, io l'ho chiamata per la quotazione di Snyder, sì. Non ho capito se il Galatasaray che dà 20 milioni più Snyder o vuole 20 milioni per Snyder. No, è il Galatasaray che vorrebbe 20 milioni per Snyder, perché questa è la clausola, Mario, la clausola per portarsi via Snyder da Istanbul. Ho capito, io sono un tantino preoccupato sono perché tanti. Da vecchio juventino, conoscendo Marotta, l'opinione personale che ho di Marotta, non è che abbocca una cosa del genere, no? No, ma credo che la Juventus non pagherà mai, Mario, 20 milioni di euro per Snyder. Mi sembra che l'abbiamo spiegato bene prima, siamo al gioco delle parti di una trattativa che molto probabilmente andrà in porto nell'arco di qualche giorno. Si parte così, poi ieri l'allenatore del Galatasaray ha anche detto: io non voglio privarmi di Snyder, poi certo se lui ha piacere ad andare prenderemo in considerazione lo scenario che si apre. Ripeto, la Juventus non spenderà mai 20 milioni di euro per Snyder e Snyder molto probabilmente a breve sarà un giocatore della Juventus su condizioni nettamente diverse. 800 24 00 24, c'è la borsa? Borsa. Tutti convocati. Innanzitutto facciamo arrivare Snyder, se arriva, che è ancora un giocatore di Galatasaray. Poi l'obiettivo della Juventus deve essere quello di migliorare la squadra, di cercare di migliorare la squadra, e per migliorare sotto l'aspetto tecnico bisogna prendere dei giocatori qualitativamente a livello di quello che abbiamo, se non superiori. Credo che questa squadra abbia la possibilità di migliorare indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori. È normale che Snyder è un giocatore che ha grandi qualità tecniche, l'ha dimostrato durante la sua carriera, e soprattutto andrebbe a completare un reparto di centrocampo già molto forte. Cosa deve dire di più Allegri per spiegare che vuole un trequartista e per spiegare che vuole Snyder? Ha detto anche Allegri: serve un difensore, spero di averlo nei prossimi giorni. Allegri che insieme a tutti gli altri ha giocato molto a carte scoperte all'inizio di questo mercato che si è aperto oggi, si chiude il 2 febbraio, ha giocato a carte scopertissime anche Mancini, me lo fate sentire? Noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di due esterni, Podolski uno, un giocatore che ha 29 anni, ha una carriera importante alle spalle, è un bravo giocatore, quindi credo che ci possa dare una mano, ecco. Però gli esterni erano due, quindi no. Un commento su Lavezzi, cosa pensa di questi ultimi sviluppi al PSG, se può essere un'opzione anche lui in alternativa? Qui c'è da aspettare. Qui c'è da aspettare, che equivale, nel linguaggio cifrato ma non troppo, di Mancini: meglio Shaqiri subito, piuttosto che dover aspettare una trattativa complessa, capire se il Paris Saint-Germain accontenterà Lavezzi, se lo terrà fermo fino a maggio, se ci saranno altri accordi, se c'è anche qualche altro club, perché Lavezzi è un giocatore, così come Shaqiri, che potrebbe avere del mercato. 800 24 00 24, Massimiliano da Udine. Buongiorno. Eccoci. Le volevo chiedere una cosa riguardo al mercato della Juventus e anche al mercato dell'Inter. Io non riesco a capire come mai le squadre italiane, in particolar modo queste due squadre, si ostinano a comprare dei giocatori, in particolar modo la Juventus, già vicino ai 30 anni, quando sul mercato si potrebbero comprare dei giovani in prospettiva. Inoltre Schneider ha già giocato in Champions e quindi non può essere impiegato in tale competizione, e mi sembra allo stesso tempo anche Rolando in difesa. Poi per quanto riguarda l'Inter, non riesco a capire come mai nel mercato di gennaio, quando si potevano acquistare presumo anche a giugno, adesso l'allenatore abbia la possibilità di scegliere tra questi campioni, sicuramente dal punto di vista tecnico molto più elevato rispetto agli acquisti che sì, rispetto a quello che ha fatto Mazzarri. Beh, questo è il valore aggiunto di Mancini, lo abbiamo detto prima, un allenatore che sicuramente ha delle capacità di persuasioni particolari, Massimiliano, sulle società per le quali lavora. Poi sull'Inter il conto lo faremo dopo, quando vedremo anche qual è la parte delle uscite, perché non so se hai sentito Massimiliano, ha detto Mancini: io sono anche d'accordo che si debba fare un sacrificio pur di poter prendere due o tre giocatori, ad esempio quello che parte a giugno potrebbe essere Icardi. Sulla Juventus è vero, Schneider non potrà fare la Champions, Rolando mi sembra di sì, perché credo non abbia fatto nemmeno una presenza quest'anno in Champions con il Porto, però evidentemente Allegri ha in mente un piano che non è soltanto per questa stagione. Se c'è l'occasione in questo momento di prendere un giocatore importante come Schneider, di portarlo alla Juventus a particolari condizioni di mercato, meglio prenderlo. Evidentemente pensa anche che potrà aiutare ad allungare le rotazioni, un po' quello che fece Ronaldo l'anno dell'ultima Champions del Milan. Non giocò mai in Europa perché non poteva giocare in Europa, ma alla fine fu utile per far riposare gli altri che arrivarono fino alla finale di Atene. Mi fate salutare Vincenzo Pincolini? Pincolini, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Si può fare anche un discorso così, quando si va sul mercato e si prende un giocatore che non potrà essere tesserato per la Champions? Sì, sì, sì. Cioè l'idea certamente, che possa in qualche modo allungare le rotazioni di tutti, esatto, gli altri, e, esatto, ed esatto, essere comunque un beneficio. No, beh, il discorso delle rotazioni penso che sia un discorso ancora, uno dei pochi discorsi che possa dare un po' di tregua a questo calcio pieno di problemi, pieno di infortuni, perché appunto l'abbiamo già sottolineato anche parlando proprio da Radio 24, che non bisogna far diventare la rotazione un fatto emergenziale, cioè incominciamo a farla quando non ne abbiamo più, dobbiamo incominciare a fare un po' di prevenzione, e da questo punto di vista chiaramente se avessimo le famose due formazioni, non ti dico uguali ma abbastanza interscambiabili, sicuramente potremmo prevenire tanti problemi anche dal punto di vista di quello che è il problema poi grosso degli infortuni che abbiamo affrontato tante volte. Quindi ben venga l'allungamento delle panchine in questo senso, ecco. Sì, discorso che i giocatori continuano a faticare, che non capiscono. Cioè dobbiamo, quando si va in bicicletta si dice che bisogna bere prima di avere sete, cioè nel calcio dovremmo imparare a togliere un giocatore prima che questo sia stanco, nel senso che, per dire, con una pausa breve potrebbe recuperare immediatamente. Io penso che sia anche una strada per allungare le carriere, penso che sia una strada per arrivare, ad esempio, attenzione, perché la strada è lunga, ma le coppe o le cose importanti si giocano poi gli ultimi due mesi della stagione, quindi arrivare lì, cioè arrivare giù dal poggio per fare fare la volata a Sanremo ancora con un po' di birra, insomma, ecco. Certo. Vedi che anche saltando da uno sport all'altro, ma i concetti non cambiano mai, insomma. No, cambia che finalmente sono finite le vacanze, le lunghissime vacanze del calcio italiano, 16 giorni senza calcio. È vero che questa è la partita più temuta, la prima del nuovo anno, la partita più temuta per allenatori e preparatori? Beh sì, per certi versi mi è temuta proprio perché esci da un tunnel dove non sai cos'è stato. Io credo che in questi 16 giorni sia molto più importante quello che una volta dagli allenatori antichi, io mi metto un po' quasi in quella generazione lì, veniva chiamato l'allenamento invisibile, cioè quello che il giocatore ha fatto al di fuori del campo, perché veramente sicuro tutti ormai hanno una pausa che è corta, tutti vanno sul campo per dire in un certo modo, ma il discorso della concentrazione che può nascere fuori attraverso un'alimentazione adeguata, un riposo adeguato, che in questo periodo di feste può anche essere messo un po' in crisi da tante iniziative, da tante cose che ti chiamano a fare. Per cui diciamo che è un po' un tirare il proprio fare il riassunto di questi 16 giorni in un modo che non sai bene come può essere, e solo la partita ti dà questa faccia reale. Per cui il dubbio nasce da quello. Infatti, per dire, io poi fra i problemi, al di là di quello che si può fare o non si può fare nella pausa, vedo proprio, mi viene in mente adesso l'arrivo di tanti giocatori nuovi. Ecco, quello è un problema da affrontare con molta attenzione, perché sono giocatori che vengono da allenamenti diversi, da preparazioni diverse, e quindi, per dire, non avere nemmeno troppa fretta a metterle dentro forse può essere un altro consiglio, non solo dettato dal buon senso. Quindi magari c'è Podolski, perché di questo parliamo, Podolski, certo, sta facendo in questi, certo, minuti il primo allenamento con Mancini, perché è arrivato il transfer, certo, non è obbligatorio doverlo lanciare direttamente domani sera in casa della Juventus, ma non è solo una questione tattica. No, a me viene da pensare più ancora a Cerci. Perché? Perché Cerci viene, l'anno scorso ha giocato sempre, quest'anno non ha quasi mai giocato, quindi per dire, cioè, essere sicuri che abbia il ritmo di una partita nelle gambe, perché altrimenti si va incontro, per dire, di solito l'esordio è sempre molto importante per il giudizio dei tifosi, non solo, e anche per avere un più o meno calcolato rischio, perché vieni da un periodo dove tu non hai, cioè di solito diciamo che bisogna monitorare sempre i giocatori, viene da un periodo dove sicuramente il Milan e tutto lo staff non lo ha potuto monitorare, perché era una dall'altra parte, non sai se si è allenato bene, se si è allenato poco bene e tante altre cose. Ecco, è un giocatore che ha una capacità di cambio marcia, un giocatore molto di fibre muscolari di seta, quindi sono quelli che, per dire, sono ancora più pericolosi da tenere sott'occhio, ecco. Sì, Luis Enrique invece ieri sapeva benissimo che Neymar era rientrato 48 ore prima della partita a Barcellona, certo, che aveva fatto 21.000 chilometri, tutto certificato in 13 giorni, due amichevoli, inaugurazioni, show musicali, le modelle. Io dico che Luis Enrique ha fatto benissimo a tenere fuori Neymar e Messi, poi adesso gli stanno togliendo la pelle, certo, perché ha perso, ed è, certo, tutto comprensibile. Certo. Tu? Io penso che nel gioco lungo abbia avuto ragione lui, nel senso che crei anche, per dire, un presupposto per sottolineare ancora di più l'importanza dell'allenamento, di un certo tipo di lavoro che tu vai ad analizzare, ecco. E chiaramente perdi la partita, sei un coglione, l'avesse vinta sarebbe stato un fenomeno nell'organizzazione della gestione dei cambi. Però, per dire, dobbiamo imparare in questo calcio, guarda, io penso che noi siamo ammalati di due o tre cose grosse. Intanto bisogna imparare anche ad avere un diverso rapporto con la sconfitta. Due, bisogna imparare a dare dei giudizi su tempi medio-lunghi e non sull'emozione di una partita. E tre, probabilmente anche a saper valutare tutte queste cose pensando che sia altri, che sia Messi, che sia il brasiliano, sono delle persone per cui sicuramente 21.000 chilometri non li avrebbero messi in condizioni di fare cose strepitose. Sì, ecco. Punto 4 che aggiungo io, prima o poi apriremo anche un discorso su queste superstelle super pagate dai club che in 13 certo. giorni fanno il giro del Sud America per certo. andare a raccattare certo. qualche decina di certo. migliaia di euro, anche qualche certo. centinaio di migliaia di euro, per carità, sono soldi, però è gente che prende dai 15 ai 20 milioni di stipendio. Io non so se sono esempi di professionalità, poi noi abbiamo gli sportivi americani che si gestiscono da soli, però la verità certo. lo faceva prima il conto Filippo Maria Ricci: negli ultimi 5 anni Messi ha giocato solo una volta la partita di ritorno dalle vacanze di Natale. Sì. Prima sì. o poi dovremo anche chiedere conto a questa categoria di superstar di questi comportamenti. Anche perché, ad esempio, l'analisi di Filippo Marelli è perfetta, e poi però è messo in confronto con un mondo, quello americano, dove, attenzione, perché le stagioni sono tutte molto corte, quindi dove poi dopo i giocatori hanno la capacità di monetizzare in momenti di pausa che sono invece parecchio lunghi, mentre questo calcio ormai è 12 mesi su 12. Sì, nazionali comprese. Anzi, adesso facciamo il discorso sulle date, perché l'anno prossimo potrebbe cambiare qualcosa anche nelle date del campionato italiano. Certo. Abbiamo un minuto di traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Perché poi c'è che l'anno prossimo anche la nostra Serie A potrebbe avere le ferie tagliate, sta tutto nell'accordo certo. per finire prima il campionato e consegnare i nazionali a Conte con una settimana d'anticipo rispetto alla data del 22 maggio, richiesta assolutamente legittima questa da parte di Conte. Potrebbero giocare le nostre squadre o il 23 dicembre o il 3 gennaio, accorciando leggermente, di giocare in mezzo non se ne parla. Pincolini, io non so se per una questione fisica o sindacale, cioè che i giocatori hanno ottenuto di poter fare le ferie lì a Natale e adesso è difficile smuoverlo. Sì, io penso che sia quello, attenzione, anche i numeri della Premier League, insomma, con queste famose partite del Boxing Day, del periodo di Natale, però ci devono far riflettere, perché periodi dove casomai è più facile, potrebbe essere più facile andare alla partita con i ragazzi che sono a casa da scuola, periodi anche dove si è più portati ad andare a vedere delle cose importanti, cioè chiaramente ogni giocatore ha dei diritti, per dire, però la vita di un giocatore dura anche poco, però il giocatore è anche uomo di spettacolo e lo spettacolo ha delle sue regole, e quindi io non mi scandalizzerei nemmeno se si giocasse anche in mezzo, ecco. No, anzi, sarebbe auspicabile. Lo sta facendo la Serie B, lo sta facendo la Serie B in Italia. Certo, noi dobbiamo però poi tornare a quelli che sono i nostri problemi, che di solito questo periodo quest'anno è stato un po' come l'anno scorso, strano, ma è un periodo molto freddo. Noi non abbiamo le strutture per fare queste cose, c'è solo un campo riscaldato in Italia. Sì, ma allora dovremmo fermarci anche a gennaio, cioè certo, il rischio infatti, freddo l'abbiamo anche a gennaio, chiudiamo il campionato all'inizio dicembre, riprendiamo a metà esatto. febbraio, però evidentemente stiamo facendo un discorso impossibile da sostenere. Però, ad esempio, siccome parliamo di cifre che per squadre di altissimo livello sono cifre veramente risibili, allora diciamo, giochiamo davvero, perché ci saranno anche degli introiti superiori a questo periodo, però incominciamo a fare i campi predisposti per giocare d'inverno anche questo periodo, gennaio compreso. In Italia sulle strutture si parla di giocatori, ma sulle strutture per fare poi esprimere i giocatori si parla molto poco. Attenzione che veniamo da anni dove, ad esempio, adesso è stato in buona parte recuperato, ma era un problema giocare a San Siro d'inverno, quindi per dire, nel complesso dei discorsi dovremmo metterci anche quello dei campi, perché altrimenti parliamo di una Serie A che gli manca questo, gli manca quell'altro, non ha appeal, però per incominciare ad avere un po' più appeal, per incominciare ad essere un pochino più interessanti e belli in questi periodi, occorre fare dei passi che tutto sommato non sono costruire uno stadio, fare un impianto su un campo. Ci sono paesi che hanno un calcio meno importante, che però sono molto più avanti con le attrezzature attrezzature, quindi noi dobbiamo incominciare a dire quando incominceremo a parlarne. Sì, magari con gli stadi nuovi fra 10 anni, o magari anche un po' prima, se si tratta di investire sulla qualità di un terreno di gioco. L'esempio di San Siro, che un paio di stagioni fa finalmente ha risolto i suoi problemi spendendo qualche centinaia di migliaia di euro, potrebbe essere un esempio virtuoso. Per chiudere, Vincenzo Pincolini, sulla questione stage a febbraio, ha ragione Conte o gli allenatori, preparatori atletici dei club che gli dicono: amico, da qui al 1° marzo noi giochiamo 15 partite, una ogni 3 giorni, quella è l'unica settimana che li abbiamo qui, perché dobbiamo darli alla nazionale? E guarda, io adesso mi trovo in pratica, non ti dico sul banco degli imputati, ma lavorando per le federazioni, chiaramente sono un po' interessato al discorso, anche se io mi occupo di giovani, ma qualche problemino l'abbiamo anche noi. Io penso che si potrebbe tornare a fare un discorso anche abbastanza approfondito su queste cose qua. Io mi ricordo un progetto vecchio di Galliani, che di solito è molto attento a queste cose, in cui lui diceva: facciamo in modo abbastanza provocatorio, in modo che attorno a cui poi c'erano da limare dei dettagli, anche molti dettagli, però lasciamo un periodo lungo d'estate, un mese, 35 giorni, tutto alle nazionali, e poi riduciamo invece i periodi in cui queste nazionali lavorano in mezzo ai calendari super affollati. Io penso che anche lì ci sia da tornare a fare un discorso, ecco. Sì, perché non è che i giocatori vanno poco in nazionale. In un'annata normale come questa, un giocatore della nazionale italiana nei 12 mesi sta intorno ai 50 giorni con la nazionale. Certo, negli anni certo. Pari arriviamo addirittura tra gli 80 e i 90, se poi la nazionale percorre, diciamo, tutto un mondiale o un europeo. Si tratta forse di trovare il momento giusto, il compromesso. E di ampliare un po' di più. Ad esempio, mi ricordo che il progetto di Galliani prevede in pratica che, non so, un anno a giugno si fanno le qualificazioni, l'anno dopo i mondiali, un anno si fanno le qualificazioni, l'anno dopo, per dire, gli europei. Cioè, adesso è una semplificazione, non lo ricordo perfettamente, però arrivare anche a ragionare attorno a una cosa così, secondo me, potrebbe essere possibile, ecco. È chiaro che se andiamo a vedere la densità di impegni di giocatori in quel periodo lì, che poi quando riprendono le coppe, perché parliamo sempre di grossi giocatori, di grossi club che hanno le coppe, è chiaro che trovare degli spazi, bisogna aprire i gomiti e farsi largo. Quindi, insomma, potrebbe essere non ideale per le società, ma chiaramente anche per Conte, lavorare con dei giocatori che in quel periodo lì hanno i muscoli in un certo modo e la testa forse anche in un certo altro obiettivo, potrebbe non essere ottimale. Sì, cioè, inutile chiamare comunque a Coverciano se poi hanno in testa il Borussia Dortmund, l'Europa League, e ripeto, un momento della stagione che in 2 mesi scarsi li porta a fare, tra coppe europee, certo, campionato e Coppa Italia, una 15ina di partite, perché di questo stiamo parlando, ad esempio, per i giocatori eventuali nazionali delle 5 squadre che fanno l'Europa League. 6 gennaio, 1° marzo, siamo tra le 15 e le 16 partite. Grazie professore. Grazie a voi e buona trasmissione. Saluti. Grazie a Vincenzo Pincolini. Ci sono Giuseppe dalla provincia di Messina, Claudio da Trento. Prima però mi fate sentire Pioli e Mihajlovic, perché questa sera ore 20:45 si torna in campo con Lazio Samp. Io ho indicato sicuramente la Sampdoria come la sorpresa della stagione. Per quanto riguarda la Lazio, sono sempre stato molto fiducioso e molto positivo sul nostro cammino, perché ho imparato da subito a conoscere i miei giocatori e i valori che hanno. È una partita importante, ripeto, noi siamo arrivati qui in questa posizione perché lo meritiamo, perché lo abbiamo meritato, dobbiamo continuare a dimostrarlo. Tra l'altro giochiamo davanti ai nostri tifosi, ai quali faccio un invito: venite numerosi, dateci la spinta, sostenete i giocatori. Se magari qualcuno sta già pensando al derby, prima c'è la Sampdoria. Per me tornare a Olimpico, giocare contro la Lazio è sempre una bella sensazione, perché non nascondo che io sono tifoso della Lazio, perciò non l'ho nascosto mai, però domani vorrei dargli un dispiacere, quello senz'altro, perché devo guardare la mia squadra e sono convinto che abbiamo carte in regola per metterli in difficoltà. L'anno scorso abbiamo perso 2-0 giocando malissimo e siamo riusciti a subire anche un gol con un uomo in più, e sicuramente è una delle partite più brutte che abbiamo fatto insieme con quella a Bergamo, però penso che i ragazzi, il gruppo è cresciuto molto rispetto all'anno scorso e che questo che questo non si ripeterà, poi se si dovesse ripetere, se cazzo vuole. Se perdiamo non ci sono più giorni liberi, va bene. Giuseppe dalla provincia di Messina. Giuseppe. Buonasera, buonasera, buon anno a tutti. Eccoci. Senta, io sono un tifoso dell'Inter, ho 54 anni, seguo l'Inter da quando ero giovanissimo. Ricordo che ero minorenne, mi facevo 23 ore di viaggio in treno per andare a vedere l'Inter a San Siro, quindi ci figuri. Complimenti. Grazie. Devo dire però che ultimamente sono molto, ma molto deluso, diciamo, da vecchi anni, dall'era Moratti, della politica che l'Inter fa con i giovani italiani, diciamo, da pochissimo spazio ai giovani italiani. È una storia lunghissima che, diciamo, possiamo, per semplificare, inizia con Pirlo e finisce ai giorni d'oggi. E non lo so, io quando vedo la nazionale e le dico questo sentimento è un po', si sta diffondendo, almeno delle persone che conosco io, quando vedo la nazionale e non vedo un giovane italiano, quando c'è l'inno addirittura neanche la vedo più la nazionale. Perché non ci sono giocatori dell'Inter? Non ci sono giocatori dell'Inter. Io ricordo l'ultimo mondiale vinto e ricordo con orgoglio, perché c'era Materazzi nell'Inter che ha fatto vincere, ha contribuito insieme all'acquisto grosso, addirittura grosso, che avevamo acquistato quell'anno, già sentito parte dell'Inter. Ma poi dico, noto le contraddizioni tecniche, non è che un giocatore straniero quando è forte, ecco Mourinho, abbiamo vinto con Moratti perché tutti dobbiamo dire grazie a Moratti per la triplete, però dal punto di vista tecnico non mi è piaciuto Moratti con la gestione branca di questi stranieri. Sì, quelli stranieri però sono anche quelli che hanno costruito poi l'ossatura dell'Inter, che con Mourinho ha fatto il triplete. Gli argentini sono stati spesso criticati, ma sono stati un pezzo importantissimo di quella storia. Sono scelte, l'Inter è così, non è l'unica squadra. In questo campionato c'è stato anche il Napoli, che se non sbaglio è riuscito a scendere in campo senza nemmeno un giocatore italiano, c'è stata la Fiorentina, c'è chi fa scelte contrarie, come il Milan ad esempio, che cerca sempre di avere un'intelaiatura fatta di giocatori italiani. Sono scelte. Il problema è, secondo me, quando la qualità degli stranieri che tu fai giocare al posto degli italiani si abbassa in maniera sensibile, come può essere in questo momento il caso dell'Inter. Però se arrivano i campioni, gioca chi è il migliore. Claudio da Trento. Claudio. Buongiorno a tutti e buon anno. Eccoci. Beh, sì, gioca il campione se è forte. Poi io sono tifoso del Barcellona da circa 18 anni e mi ritrovo una dirigenza che fa un acquisto come Suarez, che penso che possa essersi considerato un gran campione, e però poi ci si lamenta che lui e Messi si pestano i piedi, o che magari Messi debba giocare più a destra e non renda più il massimo. Io credo che il vero problema di molte squadre, purtroppo la nostra fra tutte, sia che ci siano dirigenze che non hanno più molto chiaro quale sia la strada. Cioè, ogni società dovrebbe avere un suo diktat e un suo modo di giocare. Io credo che il Barcellona, da dopo l'era Pep, che è stata stupenda, abbia perso un po' il suo modo di fare, o per meglio dire, per continuare a farlo e non avendone le attrezzature tecniche e tattiche, perché in questo momento giocatori come Xavi, Iniesta, sì, passano anche gli anni, passano proprio Iniesta, anche Messi non è Messi di 4-5 anni fa, per esplosività, diciamo che però per è velocità. Sempre a lui che si chiedono i miracoli, e per rispetto a quei giocatori che hanno reso grande quella squadra lì, non si è avuto mai il coraggio di un vero cambiamento. Sì, comunque il Barcellona è la dimostrazione che ti può capitare una volta di pescare una generazione di fenomeni direttamente dal tuo settore giovanile, e Guardiola ci ha costruito un ciclo. Quelli che sono saliti dopo, dalla Masia alla prima squadra del Barcellona, non sono dello stesso livello. Detto poi Claudio che su Suarez il Barcellona credo abbia dovuto e voluto anticipare alla scorsa estate un acquisto, sapendo che andava incontro al blocco del mercato, cosa che poi effettivamente è accaduta. Abbiamo ancora un minuto, Ermanno da Ferrara. Ermanno. Buonasera. Eccoci. In parte mi avete già risposto con diversi interventi sulla parte di Schneider, però volevo chiedervi ancora una volta che fame può avere Schneider nella Juventus? Non è qualcosa di riscaldato? Non era meglio Sakiri a 23 anni che poteva inserirsi nei programmi della società? Ecco, vi ringrazio, molto fiducia in voi. Credo che la valutazione Ermanno sia che Schneider è un giocatore pronto, è forse anche un giocatore in questo momento di un livello qualitativo leggermente superiore rispetto a Sakiri, che è un investimento per il futuro. In questo io credo ci sia anche da parte di Toir la volontà di farlo, questo investimento, perché è un giocatore di 24 anni su cui puoi fare un ragionamento. Allegri e la Juventus oggi hanno delle necessità diverse, hanno già un'intelaiatura, hanno bisogno di aggiungere una ciliegina. Grazie Ermanno, ci fermiamo qui. Io ringrazio Franco Piantini, l'autore di questa puntata, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, torna Carlo Genta, giuro.